Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum, ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Fibio! Non si può andare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Prima o poi vi sparo! Alle 22:28 finalmente un po' in ritardo, ma siamo qui con Radio Post. Buonanotte a tutti. Stasera problemi al mixer, non vi preoccupate, insomma sono io che non sono capace, abbiate molta pazienza, forse non vorrei fare senza molto difficile va bene, di cosa parleremo stasera? Stasera torniamo a parlare di un tema che ci sta molto a cuore, visto anche la città in cui abitiamo, che riguarda la cementificazione e la distruzione dell'ecosistema, diciamo, nella città di Roma. Ci diamo un'esperienza in particolare, che è quella del parco di Aguzzana, che è stato occupato per strapparlo dalle mani dei palazzinari. Poi parleremo con una ragazza che fa parte del coordinamento che sta adesso gestendo questo posto, ci spiegherà tutto nel dettaglio. È un po' un caso, uno dei tanti, delle tante vicende, uno delle tante cose che sta succedendo a Roma su questa linea, poiché questa è una città che è cresciuta già dagli anni 60, tanto che si parlava di sacco di Roma, no? È cresciuta proprio sulla prolificazione e la proliferazione di palazzi, di strade, di cemento, come unico modo per fare reddito, lavoro e insomma per produrre. Ma questa è una città in mano ai palazzinari, lo è sempre stata. Possiamo fare tanti nomi, dai Caltagirone ai Marchini, che sono i costruttori storici del Partito Comunista, segno che quindi il palazzinaro ha appigli e agganci politici, ha sempre avuto agganci politici in tutte le parti politiche del paese. Tra tanto, uno degli eredi della dinastia Marchini, Alfio Marchini, si è candidato direttamente a sindaco, quindi adesso non delegano neanche più i loro interessi alla rappresentanza politica dei partiti, ma si impegnano in prima persona. Per finire poi con il famoso Roberto Carlino, che in una specie di festa del grottesco è consigliere regionale in quota UDC, Listino Polverini, nella ormai per fortuna decaduta giunta Polverini, ed è stato perfino anche presidente della commissione ambiente, chiamiamolo conflitto di interessi. Vabbè, comunque insomma, questa è una città dove il cemento l'ha sempre fatta da padrona. Adesso a cemento si aggiunge cemento con la nuova trovata dello stadio della Roma in zona Tor di Valle. Tra l'altro qualche tempo fa abbiamo anche parlato di una vicenda relativa in qualche modo allo stadio Tor di Valle, con delle persone, degli attivisti che hanno occupato un canile per evitare lo sgombero e la deportazione di cani, e dietro questo sgombero di questo canile c'erano gli interessi della protezione civile ed erano strettamente legati alla costruzione dello stadio della Roma nella zona di Tor di Valle, Vitinia, insomma quella zona lì della Via del Mare. E vabbè, per me possiamo mettere uno stacchetto musicale e poi rientriamo in diretta con l'intervista alla compagna. Ogni animale che ci entra poi non esce più vivo. Ti uccidono, li appendono ad un gancio metallico. Il sangue scorre a fiumi mentre li macellano. E insensibili a tutte le urla strazianti. L'importante è che la produzione vada avanti. L'importante è far finire sulle tavole bandite il macabro frutto di queste vite rubate. È giunta la tua ora. Solo quando gli conviene, titolare responsabile di tutto il complesso. Murate, chilometri e divieti d'accesso. Sta tentando di convincermi che non è ipocrisia. Gli animali là dentro stanno come in fattoria. We'll be right back. qui, allora, come promesso, iniziamo questa telefonata con una nostra compagna che ci parlerà del, appunto, del Casale Alba 2 e soprattutto del fatto che, insomma, questa occupazione è, diciamo, unisce due cose importanti: oltre alla cementificazione di cui dobbiamo parlare, anche un progetto che è appunto la costruzione di un ICAM che tramite questa occupazione è stato bloccato. Ci vuoi dire qualcosa di più? Sì, ciao, allora, io faccio parte del coordinamento operatore del Parco di Acuzzano. Noi ci stiamo vedendo ormai da circa un anno proprio per opporci a questo progetto di ICAM, la realizzazione di questo mini carcere dei casali del Parco di Acuzzano, che è appunto il casale dove ora siamo in occupazione. E questo progetto, diciamo che per quanto è stato spacciato come un modo per dare una detenzione più dignitosa alle madri con i loro figli, in realtà comunque rappresentava un vero e proprio carcere nel parco, con un grande impatto anche per il parco, perché comunque comportava delle modifiche, come comunque alzare delle mura di cinta di 4 metri, asfaltare la strada ovviamente per il passaggio dei mezzi, un'illuminazione a giorno, appunto anche ad ogni ora della notte, quindi anche un grande disturbo per gli animali del parco. Un impatto energetico non indifferente, oltre. Sì, esatto. E quindi assolutamente poi c'è, cioè, un carcere vero e proprio, quindi non c'era nessun giovamento per le detenute con i loro figli. Un'altra cosa, oltretutto leggo che nel 95 c'era in corso un programma per una casa della musica, giusto? Sì, esatto, perché praticamente ogni casale del parco dovrebbe avere una destinazione socioculturale. E nello specifico il Casale Alba 2 doveva essere destinato a casa della musica, però appunto così non è mai stato. E anche è stato poi ristrutturato e lasciato in abbandono dal 2009. Noi infatti l'abbiamo ritrovato ora dopo 3 anni, ovviamente totalmente abbandonato e sporco, lasciato alle intemperie. Quindi. Certo, però con una ristrutturazione nuova, quindi dei costi non indifferenti. Ovviamente sì, pesanti, esatto. Che però non erano stati utilizzati perché il programma comunque è stato bloccato, quindi oltre a questo sì. Voi avete portato avanti, come dire, qualcosa di migliore, ecco, una programmazione, un'idea, perché sì, oltretutto esatto. Fate anche tante cose all'interno, giusto? Avete tanti sì, progetti, esatto. Tante... Sì, noi appunto ci siamo comunque opposti al... comunque al carcere, anche proprio in generale, cercando di costruire una socialità libera nel parco. I progetti quindi che stiamo avviando sono progetti per lo più laboratoriali, quindi cercando di un po' uscire da quelle dinamiche in cui c'è un posto che eroga semplicemente dei servizi, ma invitando chiunque a partecipare alla costruzione dei laboratori, che sono appunto per ora una ciclo officina, cioè a breve parte un laboratorio di informatica, una falegnameria e oltre ad un osservatorio contro la devastazione ambientale, che appunto ci serve per puntare un occhio non solo lì nel parco di Acuzzano, ma anche, diciamo, facendo attenzione a tutti quelli che sono i progetti di cementificazione anche più in generale a Roma. Sì, e Roma, non solo. Nel Lazio. Interessante. Cos'altro vogliamo aggiungere, qualcosa? No, volevamo anche chiederti se finora come è andata, se avete avuto problemi con le forze di polizia, con gli speculatori vari che possono essere interessati alla zona, e anche se ci descrivi un po' il parco, come è possibile raggiungere e a quali iniziative si può partecipare, diciamo. E anche quindi anche che tipo di aiuto vi si può dare, poi un'iniziativa, sì, poi magari alla fine la diciamo chiaramente, la che nostra. Ci quella che stiamo organizzando appunto. No, in generale anche come vi si può aiutare, come si può partecipare alla vostra occupazione, al vostro progetto, e anche quali problemi, se avete avuto problemi, ovviamente ci auguriamo di no. Guarda, proprio oggi mi è arrivata, oggi non ci sono stata, mi è arrivata la notizia che sono passati dei vigili urbani a chiedere i documenti, però insomma sembra che per ora la situazione sia abbastanza tranquilla, insomma, a parte questo. Poi per il resto sì, l'aiuto ovviamente è ben voluto, perché appunto come ho detto sono tutti laboratori, quindi chiunque può venire e dare il suo contributo, e noi cerchiamo comunque di fondare ogni attività su una condivisione comunque dei saperi. E le iniziative ora, insomma, abbiamo realizzato per lo più iniziative la domenica, infatti appunto c'è questa iniziativa di domenica 20 in collaborazione appunto con voi di Radio Possum e con Scherzeranda, proprio per presentare Scherzeranda e finanziare il suo lavoro. E quindi appunto ci sarà dalle 16 delle proiezioni, e poi comunque la presentazione di Scherzeranda con un dibattito, e poi la cena vegana a partire dalle 8. E sì, e così insomma, oltre a unire le due cose, ci daremo una mano a vicenda, ecco. Quindi certo, un'ottima cosa, un ottimo progetto, speriamo che partecipiate tutti domenica. A proposito, abbiamo anche lo spottino. Beh, certo, lo vogliamo far sentire. Vogliamo far sentire il nostro spottino. Così ricordiamo a tutti, insomma. Via, lo passiamo adesso. L'iniziativa. È giunta la tua ora. Domenica 20 gennaio, Casale Alba 2, Parco di Aguzzano. Via Egidio Galbani, Casal dei Pazzi, ore 16. Presentazione Scarceranda 2013, l'agenda contro ogni carcere, giorno dopo giorno. Contro ogni carcere, contro ogni gabbia. Per uomini, donne e animali. Proiezioni video sullo sfruttamento animale. E a seguire dibattito e cena vegan. Domenica 20 gennaio, Casale Alba 2, Parco di Aguzzano. Via Egidio Galbani, Casal dei Pazzi. Info www.ondarossa.info/scarceranda, perché il carcere nuoce gravemente alla salute. È giunta la tua ora. Va bene, allora io ringrazierei la compagna che insomma ci ha dato il suo contributo questa sera, parlandoci appunto del Parco di Aguzzano, dei loro progetti e di quello che insomma, qual era invece il progetto, diciamo, istituzionale, cioè di abbandono di uno stabile da anni e anni, dopo essere stato ristrutturato e poi inutilizzato. E a questo punto, se non abbiamo altro da aggiungere... No, io volevo chiaramente esprimere piena solidarietà con iniziative del genere. Noi parliamo di liberazione animale, ma una cosa, come dire, evidente è che non ci può essere liberazione animale se non c'è anche liberazione della terra, intendendo per liberazione della terra la preservazione degli spazi che sono ancora selvatici e senza, soprattutto in un contesto sociale come Roma, che è, come diciamo prima, letteralmente seppellito di cemento. Per cui pensiamo che spazi del genere, realtà del genere, che nel mondo occidentale e non solo, ma sto parlando adesso dell'Italia e dell'Europa, sono a forte rischio. Noi qui in trasmissione abbiamo parlato della ZAD in Francia, per esempio, o anche di altre realtà in Italia come la TAV o la lotta contro la CMC, la cooperativa muratori e cementieri, che in realtà è un mostro ecologico che è impegnato in vari progetti nel mondo. E la preservazione degli spazi selvatici sia comunque fondamentale all'interno di un discorso che appunto parla di liberazione animale. Per cui niente, no, pieno sostegno a iniziative e realtà del genere, e poi ci vediamo domenica. Ok, grazie a voi, ciao, grazie domenica. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Sì, anche perché per chi non ci fosse mai stato, insomma, è molto bello come posto da vedere. Il Parco di Aguzzano è veramente un parco immenso che già è abbastanza circondato, insomma, da palazzi, sì, cemento, nonché sì, appunto il carcere di Re Bibbia, che insomma ha un po' incute un po', no, questo angoscia, questo timore. Quindi sì, ben venga che appunto ci siano compagni che abbiano deciso di appunto appropriarsi di questo, sì, posto e di ricreare qualcosa di nuovo. Io manderei un'altra canzone intanto. Sì, sì. Allora, ascoltiamoci Livore, Allevatore di Morte. Evviva. We'll be right back. E niente, torniamo in diretta. Volevamo dire la nostra su un fatto, diciamo così, di cronaca, chiamiamola giudiziaria, purtroppo da un certo punto di vista avvenuto in tempi recenti. La notizia è girata anche sui mass media, diciamo istituzionali, giornali come Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Messaggero, che parla dell'individuazione di tre militanti animalisti in Toscana, di cui due sono stati poi arrestati, un altro crediamo sia ancora in fuga, diciamo. E abbiamo letto prima qualcosa rispetto al fatto che probabilmente è stato rintracciato. Sì, è stato rintracciato, non ci stanno notizie a quanto pare sul fatto se sia stato arrestato o no, e che sono stati accusati con accuse piuttosto gravi, perché sono stati accusati di aver fatto 4 diverse azioni negli ultimi 2-3 mesi in Toscana, di aver dato fuoco a diverse strutture di sfruttamento animale come soprattutto mattatoi, e nell'ultimo caso proprio la notte del 1 gennaio, del 31 dicembre di Capodanno, i 8 camion di un caseificio. Queste persone sono state identificate, avevano rivendicato le loro azioni come Alpha Animal Liberation Front, e si è poi scoperto che almeno una di queste persone aveva rapporti o ha avuto rapporti con gruppi di estrema destra in Toscana. E leggiamo da informazione.info che le sue implicazioni con l'estrema destra sarebbero attuali, e lo conferma anche la scelta di due avvocati che lo difenderanno. Il primo, Gian Gualberto Pepi, si è candidato nel 99 a Firenze per il Movimento Sociale Fiamma Tricolore. Il secondo, Andrea Mennini Righini, ha difeso un esponente del gruppo ultras neofascista Bulldog Lucca 1998 della Lucchese, accusato di un violento pestaggio di gruppo ai danni di un operaio di sinistra in un pub. Volevamo a questo riguardo leggere un estratto, un brano pubblicato proprio su informazione.info, sulla necessità di contrastare le infiltrazioni di gruppi di estrema destra all'interno dell'antispecismo, infiltrazioni che sono abbastanza spesso sono abbastanza subdole, adesso a prescindere dal caso specifico. Diciamo che il caso specifico ci fornisce la possibilità di parlarne in generale. Negli ultimi anni, se vogliamo, ci sono state infiltrazioni sia a livello di animalismo di base, e pensiamo ai 100% animalisti. L'identità politica del cui capo, Paolo Mocavero, è abbastanza netta e definita, sia anche a livello, chiamiamolo, più istituzionale. Qui basta accennare un nome soltanto, Michela Vittoria Brambilla, che ha anche fatto uscire il suo libro con in copertina una foto di un beagle di Green Hill. E niente, no, volevamo leggere questo brano che ci trova perfettamente d'accordo, insomma. Allora, ripeto, da informazione, il titolo: Liberazione animale, antispecismo e antifascismo. Intendiamo trasmettere un messaggio libertario ed antiautoritario a beneficio di chiunque, umano e non. Riteniamo che una prospettiva liberatoria debba includere ogni essere vivente nell'empatia verso le sofferenze della sua condizione soggetta ad oppressione. Assistiamo sempre più frequentemente ad infiltrazioni fasciste in ogni aspetto della vita politica, sociale, dalle lotte anticapitaliste al diritto alla casa, resistenza agli sfratti, occupazioni e via discorrendo. Come realtà antispecista constatiamo anche un crescente impegno in tematiche animaliste e di liberazione animale. Loschi figuri, riconducibili a sigle quali Antispe Ivrea, Autonomi Nazionalisti, Squadrone Animalista, 100% Animalisti, solo per citarne alcune, imperversano nelle iniziative antispeciste, come la recente incursione al corteo del 20 ottobre 2012 contro Arlan, centro di vivisezione, quando vennero scacciati grazie ad un gruppo antifascista organizzatosi spontaneamente. Scendono in strada con sit-in e presidi, sfruttano e contaminano simboli e linguaggi chiaramente antiautoritari, tra cui l'ALF, Animal and Human Liberation. Tuttavia, questi personaggi, chiaramente fascisti, sono ben lontani dalle pratiche antiautoritarie, presentandosi spesso come la sigla anti-antifa. Si dà per scontato che essere antispecista significhi anche essere antifascista, ma appare evidente che non è così. Anzi, questi sedicenti animalari godono di particolare libertà di azione proprio perché sottovalutati, nascondendosi dietro simbologie ambigue utilizzate in maniera subdola. Per questo riteniamo opportuno integrare il tema dello sfruttamento animale in un'iniziativa di condanna di un'ideologia e di una pratica, per sua natura autoritaria, oppressiva e vessatoria. Coerentemente a questa visione, sosteniamo comunque che anche il linguaggio debba compiere un'autoanalisi e che escluda equazioni speciste, spontaneamente ereditate dal linguaggio comune che ne abbonda ed inconsapevolmente reintrodotte in quello che, in piena condivisione, condanna realtà deplorevoli. Solidarietà a chi lotta contro il fascismo e ogni forma di autorità, nessuno spazio a questi infami e a tutti i loro fiancheggiatori. E il brano è stato pubblicato da Antispec Torino. È vero, scusate. Va bene, mandiamo un'altra canzone. Cosa mettiamo? Agitazione, Vivisezionati. Adesso diamo una bella notizia e oltretutto che in qualche modo si può ricollegare all'argomento di oggi, perché finalmente poi si è trovato una casa e quindi finalmente, diciamo, c'è posto anche per noi. E insomma, leggo dal loro comunicato stampa che hanno scritto da molto tempo, volevano annunciare questa notizia tanto sofferta e finalmente Pasia ce l'ha fatta. Quindi, come abbiamo detto, gli animali hanno trovato finalmente un rifugio dopo la possibilità appunto di essere sfrattati, perché era questo il problema. E quello che vogliamo dire, non solo siamo tanto contenti per loro ma anche che adesso hanno trovato un posto, però avranno sicuramente bisogno di volontari, di tutto l'aiuto possibile, di adozioni a distanza, insomma, ecco, visto che li abbiamo sentiti è una campagna che a noi ci sta a cuore, dategli una mano. Un'altra notizia che prendiamo invece dal sito esseranimali.org, il sciopero della fame per abolire la detenzione dei cani a catena. Leggiamo dal sito esseranimali.org: ognuno di noi sarà capitato di vedere cani tenuti alla catena. Per questi animali la vita, le sensazioni e le emozioni non vanno oltre quei pochi metri di movimento che sono loro concessi. Dal 1 gennaio di quest'anno Davide Battistini, un attivista per i diritti animali di Ravenna, è entrato in sciopero della fame per chiedere alla regione Emilia-Romagna di vietare questa pratica. Ormai sono 12 giorni, l'articolo è del 12 gennaio, quindi in realtà sono più di 12 giorni di astensione dal cibo. Davide si nutre unicamente di acqua, tisane non zuccherate e sale, il tutto coscientemente intrapreso sotto controllo medico. L'obiettivo è attirare l'attenzione dei media, dell'opinione pubblica e dei politici. Per questo ha creato un blog e una pagina Facebook dove invita a firmare questa petizione per chiedere l'abolizione di questa costrizione. In materia vale la pena ricordare che sono i comuni a dover legiferare, qualora però manchi una disposizione comunale subentra allora la normativa regionale, che però, oltre a dettare qualche condizione, come le precauzioni per evitare tragici casi di strangolamento o la necessità per il cane di poter sempre raggiungere acqua e cibo e un riparo, risulta spesso vaga, soprattutto nei parametri relativi alla lunghezza della catena. Tristi le leggi quando regolamentano un trattamento ignobile, reso legale di conseguenza comune proprio perché è considerato legittimo. D'altronde non vi è da meravigliarsi, per la legislazione tutti gli animali sono considerati alla stregua di una proprietà. Nel frattempo è entrato in redazione il dottor Mo. Bella, bella. Dottor Mocio, perché oggi si è laureato, all'età di 35 anni ce l'ha fatta a laurearsi. Sì, quel cazzo. Dottor Mocio, dottor Mocio. Dai, che è venuto a fare il mixer, da paura. Ah, sarà brevissima. Hai visto? Che se non ti ha sentito. Grande, meglio così, perché insomma probabilmente ti sarebbe scesa, non so, una goccina di sudore. Dicevi, no, cazzo, dove sono? Ma immaginiamo che ci fosse tutta la questura ad applaudirti al momento della laurea. L'hai vestita la pelliccia di Ermellino, di Zibellino, quella che si mette? Si è fatta la foto con la pelliccia. Vabbè, non ci dici niente, vieni qua, cioè, non so. Bene. Mamma mia, oh, cioè, bene. Che tristezza, cioè, non so, il laureato più triste, su, fai un po' di caciara, non lo so. E... Vabbè, guarda, mando una canzone perché sennò, cioè... In onore di Mocio mettiamo i Los Fastidios. No, No, che rate, raga. Un ennesimo assassino. Eccoci in onda. Allora, diamo un po' di notizie, adesso un po' di insomma appuntamenti, brava, esattamente. Allora, ricordiamo il 19 gennaio 2013 in contemporanea con il corteo contro Allan di Ganna, non so dirlo in francese, si terranno due fiaccolate nelle città dove hanno sede gli allevamenti di Arlan in Italia, Correzzana e a Udine. E poi un altro appuntamento invece nella campagna del coordinamento contro il mega macello, domenica 27 gennaio 2013 presso Casa dei Bene Comuni, via Zermanese 4 a Treviso, un buffet vegan dalle ore 18 e a seguire la presentazione della campagna con video investigativi, banchetti informativi antispecisti e vabbè, aperitivo, buffet vegan e dibattito con gli attivisti presenti. Perfetto. E poi l'ultimo appuntamento? L'ultimo appuntamento che... Allora... Il microfono. Riconquistiamoci la salute pubblica. La sanità deve essere solo pubblica. Questa è la sanità che vogliamo, oltre ogni campagna elettorale, smascherando chi ruba e chi spreca. Lunedì 14 gennaio alle 10.30. Ci sono le alle 6, certo, alle 18. Una sera che manco io, zero preparazione. Sì, un problemone. Aula occupata del CTO per una sanità creativa, artisti e cittadini in difesa della salute, da dare come appuntamento appunto che mercoledì alle 18 ci sarà questo incontro. Mo c'ha qualcosa da dirci? Che cosa? I contatti? Sì. I contatti della trasmissione sono radioboss.noblogs.org e lagazzaladra@inventati.org. Prima che ci spiega per la millesima volta perché si chiama La Gazzaladra, noi vi ricordiamo invece l'appuntamento di domenica dalle 4 a... Ma Mocio, se te metti mentre parlo il microfono è abbastanza complicato. Ricordiamo l'appuntamento di questa domenica dalle 16 in poi al Parco di Aguzzana. A Via Galbani. Via Galbani e niente. Presentazione di Scarceranda e dibattito su gabbie per uomini, cioè carceri e gabbie per animali e quindi tutte le forme di sfruttamento per animali e poi cena vegan. Perfetto, noi salutiamo tutte e tutte, salutiamo mamma Laura che ci ha mandato questo simpatico messaggio e mandiamo ancora una volta lo spottino giusto così per ricordare e vi aspettiamo quindi domenica alle 16. Ciao. E un saluto e un abbraccio speciale a chi è priva della propria libertà personale, umani o non umani. È giunta la tua ora. Domenica 20 gennaio, Casale Alba 2, Parco di Aguzzano. Via Egidio Galbani, Casal dei Pazzi, ore 16. Presentazione Scarceranda 2013, l'agenda contro ogni carcere, giorno dopo giorno. Contro ogni carcere, contro ogni gabbia. Per uomini, donne e animali. Proiezioni video sullo sfruttamento animale. E a seguire dibattito e cena vegan. Domenica 20 gennaio, Casale Alba 2, Parco di Aguzzano. Via Egidio Galbani, Casal dei Pazzi. Info www.ondarossa.info/scarceranda, perché il carcere nuoce gravemente alla salute. We'll be right back.